tuo parenzo sembrate a volte i deregi evoluti, avete un enorme sarchiapone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Questa trasmissione, punto. E io penso che debba chiudere la trasmissione. Poi anche la radio se non chiude la trasmissione. Io vorrei sentire una cosa. Quando la chiudi questa trasmissione? Allora, mai. Mette l'anima in pace, però non si può sentire più, dai, se può essere. Mamma mia. Ma qui è tutto un casino, che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Popolo della radio, Parenzo, eccolo, camionisti, tassisti, ascoltatori in ufficio, ascoltatori in taxi, ascoltatori a casa, leghisti, ma amici che... rom, no, amici rom, che c'è, no, amici tuoi rom non possono, cioè, io non ho amici rom, non ho sei talmente razzista che non i rom non possono ascoltare, non ho amici rom, non ho, anzi no, una ieri, amica la conoscente, come la si Diana chiama? Pavlovic. Sì, si chiama Pavlovic, grandissima, molto bella tra l'altro, anche bella, diciamo. Io l'altro giorno, dicevo, oggi sono tornato da Roma, aspetta, stavo facendo un annuncio, stavo facendo un annuncio, aspetta. Oggi vi sorprenderò per dimostrarvi che il sottoscritto non ha i paraocchi, non ha pregiudizi nei confronti di nessuno, al contrario di Parenzo, no, che invece ha la Lega come suo principale obiettivo. Principale obiettivo. Comunque, per dimostrarvi questo, darò ragione a Nicky Vendola. Incredibile dictu. Incredibile. Beh, questo, a dirsi. Questo, aspetta, fermano le rotative del Corriere, sì, esatto, e del Sole, ovviamente. Allora, do ragione a Nicky Vendola. Fermi, chiamate, avvisate il napoletano. Dopo avergli rotto i cabasisi, come si dice in siciliano, cioè i coglioni, sulla vicenda del vitalizio, uno scandalo che ha tagliato ad altri, ma non a se stesso. Gli devo dare ragione, perché ieri, durante una bellissima puntata di Matrix dall'amico Luca Tedese, cosa è successo? Cosa è successo? Molto è successo bene. Che battagliando con Formigoni, battagliando, sì, con Formigoni, ha detto la sacrosanta verità. La verità, è stato accusato subito: stai bestemmiando, stai bestemmiando. Formigoni era scatenato, scatenato. Però ha detto la sacrosanta verità sulla questione di Gesù Cristo, la Madonna, eccetera, eccetera. Certo. E l'eterologa, dici, che collegamento c'è? C'è la procreazione assistita, l'utero, sì, in affitto. Beh, sentiamo, lì sì, una forma. Sentiamo. Quei bambini lì sono figli di uno dei maschi. E lei è il contrario che l'altro. Mi lasci spiegare. Sì. Quei bambini lì sono figli di uno dei maschi messi al mondo con una donna. L'altro non c'entra niente nell'aver messo al mondo questi due. No. Perché c'era il primo papà e c'è la mamma americana o brasiliana o indiana. Allora, se avessimo detto che Gesù è figliastro di San Giuseppe. Pensa, non bestemmiare, sì, no, perlomeno no, non bestemmiare, ok? Non bestemmiare, parlando di bimbi non veri. Bestemmiare. No. Tu hai bestemmiato. Dovrei. Okay. Allora, io dico una cosa, qui adesso mi attaccheranno tutti i cattolici, eccetera, eccetera. Ha ragione Vendola al 100%. I cattolici, è un po' una provocazione, ma ci sta. I cattolici sulla questione dell'utero in affitto dovrebbero stare zitti, cioè i credenti, quelli che rompono i coglioni dicendo no, la procreazione deve essere fatta in un certo modo, l'utero in affitto è una vergogna, eccetera, eccetera. Perché stiamo parlando di una religione che è basata proprio sull'eterologa. Cioè, non esiste, certo, è così, questo, è sì, così. Sì, no, c'è una famosa copertina di Diario di tanti anni fa, sì, con l'immagine di Maria. È una religione fondata, eterologa, lei lo fece, Diario, certo, assolutamente, direttore, sì, di Aglio, ma di come no, anno ricordo fa. Benissimo, certo, lo ricordi? Assolutamente, sì, ma me lo ricordo, sono adesso, non importa, adesso che l'hai detto me lo ricordo, assolutamente, adesso. No, me lo ricordavo. Sì, lo so. Allora, chi è che ha fatto nascere Gesù Cristo? Lo Spirito Santo, no? Vabbè, sostanzialmente. È una provocazione. Ma no, chiaro, ma è un parto assistito. Sì, è così, una procreazione assistita, è così. Cioè, una religione che si fonda sull'eterologa. E dunque Vendola ha ragione, non rompessero i coglioni. Miracolo, ma no, non mi interessa, è così, è basato su. Non c'è rapporto. C'è stato rapporto sessuale? Non c'è stato rapporto sessuale. Ma non è possibile! C'è stato rapporto sessuale? Non c'è stato rapporto sessuale. Così. La domanda è questa: scusa, a Parenzo che è un credente, diciamo, ma sono ebraico. Di un'altra, io sono, vabbè, di un altro mezzo. Però di trasporto, conosci le religioni, diciamo. Conosci le religioni. Sì. Secondo te c'è stato rapporto sessuale nella nascita di Gesù Cristo? Ma non posso entrare nel mezzo di questa roba. Non c'è stato rapporto sessuale. Chi crede? Ma non è previsto. Cioè, è il vero padre? È il vero padre, non si può San Giuseppe, in questi è il vero termini. Padre, sì o no? È il ma vero razza di Pippe. Ma che razza, ecco quell'altro. Ma che razza di discussione? Non lo possiamo dire all'epoca, non che lo possiamo razza dire. Razza di discussione, no! Cioè, non si può discutere, no, di questa parte roba. Che l'ha detto Vendola. A parte sì, che no, l'ha detto questo Vendola. Allora, la provocazione di Vendola è giustissima e gli do ragione. I cattolici sulla questione dell'utile in affitto, della procreazione assistita, non devono rompere i coglioni, perché la loro religione è fondata sull'eterologa, è fondata su un parto che non è avvenuto tramite rapporto sessuale, è molto semplice. Ancora bellissimo. Poi Vendola dice: tu sei fissato con lo sperma, Formigoni, sei fissato con lo sperma, zio Vendola, numero uno in questo caso, all'attacco, all'attacco. Mi proclami cattolico, ma hai bestemmiato. No, non bestemmiato. Riconoscilo. Non, sì, ho bestemmiato. Hai bestemmiato. Perché, no, perché se sei tu, cattolico, come dici di perché essere. Perché c'hai un'ossessione. Hai detto una bestemmia. So. Cioè, hai un'ossessione che è quella dello non sperma. Non ho nessuna ossessione. Genitore. Non ho nessuna ossessione. Genitore non è un fatto biologico. Ah no. Genitore è anche un biologico. Fatto. La genitorialità è crescere, educare. Sentitelo. Amarli, sì. Non lo sperma. Crescere chi hai è messo cosa al mondo. Chi hai messo al mondo. Un Vendola molto zanzariano, molto crucianiano, devo dire, e in questo caso la genitorialità, essere genitori non significa averlo procreato con lo sperma, e lo dice Vendola, non mi rompete i coglioni adesso su questi termini alle 18.40, l'ha detto Vendola, è vero, era mezzanotte lì a Matrix, però comunque è uguale, dai, i video girano, le cose ormai sono di dominio pubblico anche in orari normali, poi abbiamo detto sperma, non è che abbiamo detto chissà che cosa, cioè la procreazione, essere genitori non significa materialmente aver messo al mondo qualcuno, su questo siamo d'accordo. E dice a Formigoni: siete fissati su sto fatto dello sperma. No, essere genitori significa amare una persona, volerli bene, stargli dietro o non stargli dietro, comunque essere presenti, eccetera, eccetera. E ragazzi, su, è così, dai. Io ho trovato meraviglioso. Hai l'ossessione per lo sperma, è fantastico. Una frase favolosa. Ma io devo dire che il centrodestra, Forza Italia, ha le idee chiare sulla questione dell'adozione, no? Dell'adozione gay o comunque della famosa stepchild option. Non parliamo tecnicamente di questa roba, insomma, l'adozione dei gay, perché poi ci complicano la vita con mille termini, no? Con mille termini complicati, perché la vita è complicata. In realtà, ecco, è molto. Sì, certo, non c'è dubbio. Però dovrebbe essere anche ridotta all'osso in alcuni casi. Cioè, la legge non è che deve complicare ancora di più la vita. Non deve essere una riproduzione delle difficoltà e delle complicazioni della vita, dovrebbe semplificare. E invece di dire gli omosessuali possono adottare, punto, si inventano mille cazzate. Comunque la Brambilla stiamo parlando, Forza Italia, molto vicino a Berlusconi, un po' fuori dai giochi, diciamo la verità, adesso, anche perché è da poco mamma o di un altro figlio. Si è preoccupato di animali, poi, quindi. È preoccupato di animali, sì, è vero, si no, è preoccupato di animali. Non dico, non è ironico, è un però dice oggettivo. Che Berlusconi è a favore dell'unione gay e delle adozioni, senti. Esprimo la posizione del presidente Berlusconi, che si è già più volte espresso a favore delle unioni civili modello tedesco e a favore della stepchild adoption, perché il figlio biologico. E invece Gasparri, che dice che Forza Italia è contrario all'adozione gay. Stupendo. Gasparri. Zio Gasparri. Gasparri Maurizio? Sì, ma Gasparri Maurizio. Sempre Gasparri. Sempre Gasparri. Sì. Quella che tutto il gruppo di Forza Italia terrà contraria alle adozioni, un conto è parlare di diritti, ma altro è stravolgere i principi fondamentali del nostro ordinamento. Barani ha parlato in conferenza stampa, non risponde a nessuno al telefono, ci ho provato 40 milioni di volte a chiamare Barani, che avrebbe fatto a una senatrice dei 5 Stelle un gesto inequivocabile, secondo molti, cioè quello della pompa, fammi un pompino, no? Poi tra l'altro io non capisco perché viene considerato offensivo dire a qualcuno fammi un pompino. Ancora? No, ma non lo capisco. Ma allora sei... No, ma non lo francamente non lo capisco. Non recidivo, cioè, perché non se tu dici a una donna fammi un pompino è una cosa... Uno dovrebbe dire allora, sì. Allora, entriamo nel merito, visto che ti piace no, l'argomento. aspetta. Se lo dici in un contesto, diciamo, intimo, in cui una persona con cui tu hai un rapporto è straordinario. Scusa, ne discuteremo più avanti. Ecco, esatto, bravo. Però io non capisco perché, e poi faremo una discussione più avanti, dire a una donna, fammi un pompino, viene considerato offensivo. Quello dovrebbe dire sì, ogni tanto li faccio, come tu scopi, come tu fai del sesso, matto, eccetera. Ma sì, ma matto, perché è offensivo dire a uno fa... Vabbè, non possiamo discutere, basta, andiamo avanti, su. Ho un figlio anche piccolo di 10 anni che fa la quinta elementare. Ebbene, dovrò andare uno di questi giorni dal preside, dal ministro Giannini, che ho già preso appuntamento, perché è oggetto, per quello che è successo, di fatti gravi di bullismo. Me lo picchiano, me lo picchiano, cioè il figlio di Barani, per i gesti che avrebbe fatto in Parlamento, è vittima di bullismo. Bah, bah, bah, non credo che proprio le gesta di Barani siano raccontate nelle scuole italiane, Traffico veocular. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presento La Zanzara. Abbiamo con noi il segretario provinciale della Lega Nord a Vicenza, che si chiama Antonio Mondardo, il quale ha accanto a sé Hermes Mattielli. Hermes, perché ce l'ha accanto a sé? Già, questa è una roba strana. Perché domani sera organizzeranno una fiaccolata per solidarietà nei confronti di Mattielli, che è stato condannato a 5 anni e 4 mesi. L'uso strumentale della polemica. Vabbè, ma questa è una polemica che adesso non ci interessa. Antonio, buonasera. Mondardo. Buonasera. Accanto a sé Mattielli, ci può passare Mattielli? Grazie. Sì, sono qua, glielo passo. Grazie. Pronto? Mattielli, buonasera. Buonasera. Come sta? Tiriamo avanti. Tiriamo avanti. Ma lei in che condizioni è dal punto di vista economico? Nella merda. Che vuol dire nella merda? Che sono disoccupato grazie alla magistratura e cerco di sopravvivere. Ma scusi, non ha lavoro, non ha nulla, che entrate ha? No, io avevo l'attività, me l'hanno fatta chiudere. Pensa di essere vittima di una persecuzione? Sì. Senta, si è pentito di avere reagito a quel tentativo di furto? No, assolutamente, perché io ho reagito per legittima difesa. Cioè lo rifarebbe domani mattina? Sì, sempre dentro nella mia proprietà lo rifarei, perché penso di averne il diritto. Lei che cosa aveva in mano quella sera? Una pistola? No. Sì, una Tanfoglio 9x21. Il giudice sostiene, vari giudici sostengono, che lei ha avuto una reazione eccessiva nei confronti di quei due. Certo. Ma ci racconta un po' com'è andata? Ma è andata che mi sono trovati davanti di notte, sera alle 11, queste due persone, e io ho sparato. Naturalmente non mi sono reso conto di tutti quei colpi che ho sparato, perché si figuri, è la prima volta che mi succede nella vita. Non so, non è che tutti i giorni sparo e posso calcolare la situazione, ma è stata una situazione che, in base alla mia esasperazione, perché continuamente venivo derubato, sì, e un po' di paura che guarda, io non mi sarei mai aspettato di avermi trovati davanti così, per cui sì, è stata una reazione di difesa. Lei avrebbe detto anche bastardi vi ammazza, avrebbe sparato anche con quelli... No, anche perché io non sapevo chi fossero quelle gente lì. Quelle... Lei non ha detto bastardi vi ammazzo? No, assolutamente, quelle lì sono bugie di quell'avvocato lì, che vengono ascoltate da magistrati compiacenti. Ma lei quando loro erano in terra ha sparato? No, io quando li ho visti in terra ho chiamato i carabinieri. Mi sono guardato bene dall'avvicinarmi, perché non sapevo di averli colpiti. Perché come fai a sapere nel buio se li hai colpiti? Però le sentenze dicono un'altra cosa, cioè i giudici hanno... Le sentenze sono tutte supposizioni di laureati, di gente che ha studiato, che è fuori dalla realtà. Guardi, io sono dalla sua parte, però io leggo anche quello che scrivono le sentenze e quello che sostengono, diciamo, quello che ha sostenuto l'accusa e poi la sentenza definitiva. Cioè c'è scritto che lei ha reagito in maniera non solo eccessiva, ma che quando loro erano per terra li avrebbe praticamente infierito su di loro. Questa è una bugia che è stata messa in campo fin da subito. Ma perché l'hanno voluta condannare allora? Ma secondo me ne hanno fatto una ragione di Stato. In che senso una ragione di Stato? Non so, perché se mi danno ragione poi tutta la gente si mette a sparare. Non si rendono conto che questo qui è una, come si dice, è un invogliare uno ad andare a rubare, perché tanto se non riesci a rubare poi ci siamo noi Stato che ti facciamo risarcire. 5 anni e 4 mesi e 135.000 euro mi sembra, no? Lei ha paura del carcere? No, assolutamente. Io sono dalla parte della ragione, per cui non ho paura di niente. Come le ripeto, lo rifarei, perché l'ho fatto per legittima difesa. 135.000 euro ce li ha? No, assolutamente. Io non li ho mai visti in vita mia. E dunque chi pagherà questa cosa? Lei non pagherà mai? Non lo so, non è che mi riguarda. Se non sbaglio è senza una gamba, giusto? Sì, sono senza una gamba da più di 20 anni. Mi guadagno di vivere onestamente. Loro, gente giovane e sana, mi derubavano. E adesso lo Stato li giustifica e li tutela. Ma secondo lei i Rom sono tutti ladri? Ma io non ho parlato di Rom, io ho parlato di quei due ladri lì. A lei piace Salvini? Certo che mi piace. Ma non si sente un po' strumentalizzato dalla Lega, come dice Parenzo? No, no, non sono strumentalizzato. Anzi, mi stanno difendendo a spada tratta. Ma le danno pure dei soldi? No, no, non mi danno dei soldi, anche perché non li voglio i soldi, perché se poi i soldi li devo dare ai ladri, soldi non li voglio, preferisco andare in galera. Senta, ma ha fiducia nella giustizia oppure pensa che ormai è tutto finito? No, non ho nessuna fiducia nella giustizia. Guardi cosa fanno i carabinieri, tutto quello che lavorano, e poi dalla magistratura viene vanificato tutto. Parenzo? Il signore qui è chiaramente disperato. Pensa di aver subito un torto dal suo punto di vista. Dice, mi sono venuti in casa, io mi sono difeso in modo eccessivo, ho sparato e quindi mi portano via pure quelle due lire. Ma lo capisce o no che uno non può reagire io secondo un criterio di razionalità? Quello che non capisco e che mi manda ai matti letteralmente è quel signore che sta vicino a questo poveraccio che ha subito un torto, sì, che ora è finita nelle mani di alcuni aguzzini politici. Ma non è vero, aguzzini, non è così. Aguzzini politici. Lei si sente strumentalizzato o no? No, dica a quel signore lì che vada a lavorare. Che gliene frega lui della Lega, di chi lo appoggia, di chi non lo appoggia? Lui si sente, come dire, no, sente la vicinanza, bravi, di alcune persone, bravi, punto bravi e basta. Voi. Questi Rom, questi due ragazzi, questi due signori che... Lei non deve dire questi Rom, lei deve dire questi due ladri. Vabbè, questi due ladri, sì. Va bene, questi due delinquenti, questi due ladri che sono tutelati dallo Stato. Va bene, questi due ladri tutelati dallo Stato, tra parentesi Rom, dicono attraverso il loro avvocato che adesso stanno male, uno addirittura ha una gamba più piccola, non riescono più a lavorare, eccetera eccetera, capito? Per questo vogliono i soldi. Ma quando mai hanno lavorato quelli lì? Ecco, allora se prima non stavano, se prima stavano bene, quando hanno tagliato la rete sono entrati, dovevano considerare che se ci fosse stata qualche conseguenza, sì, se la dovrebbero prendere. Se stavano a casa sua non sarebbe successo niente, in poche parole. Per cui hanno subito dei danni, ma secondo lei i danni che hanno subito fisici questi due signori, questi due ladri, a lei non gliene importa nulla? Io li avevo già da 23 anni, da 22-23 anni il danno fisico, e loro favano del mio danno fisico, venivano a derubarmi, ne approfittavano della mia disabilità, perché certo, non potevo correre, perché sono lento nei movimenti, e loro erano diventati padroni incontrastati del mio magazzino. Ma si rende conto dell'ipocrisia di quei magistrati lì e di là e del suo avvocato, perché sono degli ipocriti. Lei ha parenti, amici, gente che... No, non ho nessuno, sono figlio solo, sono solo. È solo, eh? È solo. Sì, sono solo. Io non ho nessuno. E dove campa adesso? C'ha una casa, un posto dove... Sì, ce l'ho la casa, non c'è problema se non me la portano via, perché quelli lì sono capaci di tutto. Va bene, grazie sì, a te. Sì, grazie a lei, grazie. A lei. Io dico solo una cosa, David, al termine di questa intervista anche un po' drammatica. No, io Mattieri, poi dirò sì, tante sì, cose. Sì, dopo. Io dico solo una cosa. Dopo uno il traffico, dopo la borsa, dopo il senza telegiornale. Una gamba, sì, senza una gamba. Che si vede arrivare in casa più volte, non la prima, non solo una volta. Due signori che rubano continuamente delle cose che per lui sono preziose, sono la sua fonte di sostentamento e di vita. Come deve reagire? Cioè, deve pensare prima di reagire? No, va lì e spara. Ne parleremo, e per questo. e per questo gli danno 5 anni, 5 anni e 150.000 euro, 135.000 euro da restituire. Cioè questa è la situazione. Ti voglio dire tu questo. Dimmi se non bisogna cambiare le norme per fare assolvere questo qua e portarlo in trionfo in giro per Vicenza. È quello che fa la Lega. Io lo candiderei nella lista Zanzara. Ma non c'era dubbio. Lista Zanzara a Vicenza se ci sono le elezioni. Io ti voglio dire questo. Sarà capolista. Bravo. Intanto voglio dirti questo. C'è a Milano un tassista Romeo 87 in questo momento, tassista milanese che sta trasportando in taxi una persona molto importante. Che dice? E chiederei a Romeo 87 di fare lo sconto a questa persona molto importante. Ma no, ma che lo sconto? Quello c'ha i soldi, sono amici tuoi, tutti ricchi. Non sapendo il personaggio che ha nel taxi. Sarebbe mio cugino. Vabbè, allora? No, è mio cugino che ha nel taxi. Allora che vuole? No, mi ha scritto mio cugino e mi ha detto: sai, sono sul taxi. Che palle, guarda, stiamo pure ascoltando, va, giornale radio, dai. Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Ladies and gentlemen, welcome to the Zanzara. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. Sgarbi ieri sera la gabbia, c'era pure Parenzo, la caduta di Marino, colpa, ma ancora si parla della caduta di Marino, ma è roba vecchia ormai, morta, finita. Beh, vecchia, insomma, morta, finita, vabbè, è caduto Marino, sì, per io ho detto è un caso così, ma io no? L'ho detto dall'inizio, a parte che è ancora sindaco di Roma, è vero, formalmente è ancora sindaco di Roma. Comunque è caduto perché c'è stata un'azione, come dire, no, concentrica, un accerchiamento da parte della Zanzara, con lo scherzo a paglia, noi non è che l'abbiamo fatto apposta, però un colpettino indirettamente gliel'abbiamo dato. Zanzara, poi che c'è stato Renzi e il Papa, questa è la realtà. Sgarbi. Secondo te il Papa non c'entra? Quindi eri d'accordo con la tesi di Santa Monica? C'entra Buzzi, la spazzatura? E poi c'è la lobby ebraica. Beh, quella non credo. La lobby ebraica. Parenzo. È colpa di Parenzo. Il Vaticano è Parenzo. Poi Sgarbi favoloso su un'altra cosa, perché dice che Marino che va a cena con la moglie è il massimo della sfiga. Beh, stupenda, questa cosa qui la trovo meravigliosa. Cioè, uno dice, pensa che rottura di coglioni andare a cena con la moglie. Se tu hai una moglie e vai a pranzo in un ristorante, tanto male che tu stia a casa. Stai a casa tua e ti fa da mangiare lei. O vai con un amante, o vai con degli amici, con la moglie al ristorante, il massimo della sfiga. Cioè, con la moglie al ristorante è un incubo. Tu e la moglie. Ma neanche Giannino che l'ha lasciata 30 anni fa. Uno con la moglie sta a casa, no? Ragazzi, voglio inaugurare una nuova rubrica. La nuova rubrica potrebbe avere due nomi, però il mio preferito è questo: Follie Vegane. Quanto mi stanno sul cazzo i vegani, oh! Tre notiziole oggi, caro Parenzo. Una molto grave, che riguarda in realtà gli animalisti, e riguarda un caso, non mi ricordo dove, in cui un ragazzino piccolino, un neonato praticamente, è stato ricoverato in ospedale per la dieta vegana, due anni, sottoposto a una dieta vegana vicino Belluno, completamente priva di proteine animali, subito dopo lo svezzamento, il piccolo è finito in ospedale in condizioni difficilissime. Dice il medico, il primario, c'è il rischio di gravi scompensi, chi proprio volesse fare per i figli la dieta vegana, quello che è, bisogna farlo sotto osservazione di un nutrizionista, insomma, dieta vegana, bambino all'ospedale. Altra un'altra cosa, un tizio mi hanno segnalato su Facebook che si chiama Salvatore Paladino, forse un perfetto sconosciuto, ma va bene così. Senti cosa scrive: ha postato la foto di un neonato, non so se sia lui il nonno, il figlio, eccetera. Ecco la foto di un'angioletta vegana, nata senza il bisogno della levatrice a casa propria e senza aiuto di ginecologi di merda, che sanno fottere solo soldi. Da come potete vedere, noi non abbiamo bisogno di medici se vogliamo. L'angioletta vegana, pensa che sfiga questa qua, questa povera bambina, chiamata da un signore, da un malato, da un estremista. Un'angioletta vegana, dai. Ma il massimo è a Oristano, dove ci sono gli animalisti che si incazzano per come sono maltrattate le lumache. Ti giuro, c'è una fiera delle lumache che volevano proibire. Ti giuro, le lumache. Le lumache. Perché? Perché sostengono gli animalisti di quel posto. C'è un maltrattamento delle lumache perché sono messe in enormi fosse dove vivono ammassate. Durante la raccolta e il trasporto vengono trattate come oggetti senza alcuna precauzione per evitare il dolore. Il dolore delle lumache! Quando mi stanno sul cazzo i vegani, oh! Andiamo, Nicola Treviso, 800 24 00 24. Sì, salve Cruciani, Parenzo, buonasera. Vai. Nicola, piccolissimo imprenditore di Treviso, io sono indignato dal comportamento del signor Hermes, quello che avete intervistato prima. Cioè, lei è indignato da che cosa? Dallo Stato o da Mattiello? Che ha aggredito e picchiato quei due signori che hanno tentato, poverini, di derubarlo e di aggredirlo. Eh sì, casa. Anch'io sono incazzato con lui. Sono incazzato con lui perché doveva chiedere se volevano un caffè. Sì, sì, io sono indignato. Se volevano andare a cena, magari se volevano essere invitati a cena in casa. Farli fuori. Ah, per questo. Farli fuori, doveva buttarli in un fossato. Un po' ci ha provato, diciamo, ammazzarli, a farli fuori. No, chiamare i carabinieri, non doveva farlo. Doveva chiamarli il vicino di casa, farglieli trovare nel fossato delle campagne. Un altro moderato liberale. Mi scusi, Parenzo. Non scuso proprio niente, ma non importa, dai. Nicola ha detto sì, che buttarli cosa? Ai maiali. No, Nicola, si è capito quello che ha detto, no, Nicola. Volevo aggiungere una cosa. Mi rivolgo ai giudici. Mi rivolgo ai giudici adesso. Al giudice, si rivolga. Del male al cane da borsetta della moglie o della figlia, quelli che tengono in mano quando vanno a passeggiare nel centro. Quanti anni di carcere avrebbero dato questi due signori se avessero toccato la zampetta del cagnolino? La zampetta del cagnolino della moglie del pubblico ministero o del giudice? Diciamo che non è che i giudici in generale, perché ci sono stati più giudizi, il pubblico ministero è una cosa e i giudici sono un'altra. Comunque lei dice i giudici che hanno condannato Mattielli a 5 anni, dai, se dai. Fossero stati toccati i loro cari, i loro interessi, avrebbero reagito diversamente. Ma neanche i loro cari, i cagnolini che tengono al guinzaglio, questa è una roba incredibile. Parenzo, cosa sospiri? Non ho capito. Cos'è che ti ha fatto schifo di quella roba là? Non ho capito. Mi fa schifo quello che dell'intervista dice a Mattielli che abbiamo fatto? No, mi fa schifo quello che dice anche questo signore. Quello ti fa schifo, questo mi permetto di dirlo, insomma, certo, no? Assolutamente. Intitoliamo le stanze del potere al signor Carlo Giuliani e non a Tacchio o Hermes. Ma cos'è? Ma cos'è sta bestialità? Ma cosa c'entra? Scusa, ma perché vuoi dare impasto ai maiali rom, quei due signori delinquenti? Ovviamente è una forzatura. Senso figurato, ovviamente. qui nel piccolo Enrico Nord-Est, o in quelli che si fanno un matto così tutti i giorni. No, non sono tutti come lei, per fortuna, Enrico Nord-Est, lo conosco benissimo. Per fortuna è una terra ricca di umanità, non di persone come lei. Sì, dico, Parenzo, che glielo è dico vero, io. È ricco di umanità e non di bestie, alle volte sembra rappresentare, come sembra rappresentare alcune persone che chiamano. No, va bene, allora, Matteo da Brescia, dai Matteo. Grazie. Salve, dimmi. Salve a tutti. Allora, io ho sentito l'intervista al signor Mattioli e sono contento di aver avuto la conferma della quello che avevo già letto nelle cronache, cioè che lui ha chiamato i carabinieri. Vabbè, ma al di là dei dettagli, eccetera, che sono importanti per carità in un procedimento penale, però. Beh, sono l'unica cosa che. La situazione sarà assolto. Perché nei primi due gradi il giudice sarà stato libero di credere quello che vuole. Vabbè, quello vedremo se sarà assolto o no. Che volevi dire poi? perché praticamente non esiste, non sussiste il tentato omicidio. Vabbè, ma quello, Matteo, adesso non ci possiamo mettere a fare un altro processo qui. Secondo me è sbagliata la legge, perché ripeto, se uno reagisce, non può reagire in maniera composta, può anche reagire in maniera scomposta. E secondo me, infatti, viene aperto un procedimento per questo. Ma le leggi devono tutelare anche questa reazione scomposta, secondo me. Questo è il punto. Sì, sono d'accordo con, sono perfettamente d'accordo con te, Parenzo, con Cruciani, e non, sì, non sono d'accordo con, non sono d'accordo con Parenzo. Vabbè, ho capito. Silvio, provincia di Bari, vai, Silvio. Silvio, pronto? Dimmi, Silvio, dimmi. Sì, pronto, buonasera, scusate, io volevo parlare dell'argomento di apertura, cioè la serata di ieri sera di Matrix. Sì. Che c'era Formigoni, sì, solo contro tutti, diciamo. Vabbè, c'era Vendola contro Formigoni, adesso non so, contro tutti, comunque. No, no, anche contro il vicepresidente della famiglia Arcobaleno. Vabbè, allora Silvio, quindi, dov'è il problema? Scusate, il problema è che si fa discussione se in Italia bisogna accettare la legge per fare avere un figlio a due, una coppia omosessuale. Scusate, di questo mondo, sì, hanno sempre avuto un papà e una mamma. Due papà, due mamme. Non l'ho mai visto in vita mia. Non l'hai mai visto, ma esistono però. Hai visto male. Esistono famiglie in cui ci sono due uomini e magari il figlio avuto da uno dei due uomini quando erano sposati. È pieno di famiglie così. Cioè, ce ne saranno migliaia in tutta Italia. Perdonami, se prima era sposato e aveva... E poi si è accorto che gli piaceva, e poi si è accorto che gli piaceva il pisello. Oppure a una donna, poi si è accorta che gli piaceva la patata. No, no. Chiaro? Ok, vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma no, ma è quello. Se poi uno ha un figlio, che facciamo? Lo buttiamo il figlio? No, questo no. Però che tu vuoi avere un bambino e non l'hai avuto, e ti sei... Già, tu sei... Ma io su questo, per esempio, Parenzo la pensa in maniera diversa. Per me, la, per me, per me, beh, non ne parliamo. No, però mi spiace. Fermo là, fermo, fermo là, fermo, fermo. Ma io ho chiamato la Zanzara, mica ho chiamato, che ne so, Barisoni. La Zanzara. Ma maledetto il giorno, io dico, che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. Allora ragazzi, vi rendete conto, ha ragione il fatto questa mattina? È arrivato un ospite qui intanto. Sì, faccio, sì, lo so. No, lo faccio star zitto ma entrare? Sì, sì, sì, fallo entrare, fallo entrare. Ma lo faccio star zitto allora. Ma sì, per adesso sì, per adesso sì. Star zitto. 19:40 iniziamo. Fate entrare, però deve stare ancora in silenzio. Fatelo entrare, lo vedete, no, voi da casa? Grande incontro, grande incontro. Lo vedete o no? Il ritorno... Vabbè, silenzio, silenzio. Chiudi, chiudi la parte. Fatelo entrare. Allora, ecco, fermi, fermi tutti. Lo vedete o no? No, non lo vedo, non c'è la cosa. E poi soprattutto non c'è la, ma non c'è la webcam a Roma, cioè, no, non c'è, ma un cazzo. Siamo in radio, non è la TV. Mettiti seduto lì, per cortesia. Ma non gli fare, non gli dare ordini così. Ce li dai ordini così. Ordini, che ho detto, per cortesia, scusami. Dammi questo zainetto. Allora, grazie, scusa. Ma vi rendete conto, ha ragione il Fatto Quotidiano? Mettiti che oggi... comodo con le cuffie, questo. Sì. Mi fai fare la trasmissione? Esatto, sì, bravo. Fai la trasmissione, ho capito. Ma qui bisogna dare. Ecco. Mettiti le cuffie. Scusami. Allora, ha ragione il Fatto Quotidiano quando scrive che ancora non ci sono le unioni civili in 27 anni, non so poi perché mette questa cifra, 27 anni, forse dalla prima proposta di legge sulle unioni civili, i matrimoni gay, eccetera, e invece i partiti, amici miei, mi prudono le mani, hanno sbloccato in un solo giorno 45,5 milioni di euro di finanziamento pubblico, un residuo di finanziamento pubblico che forse scomparirà nel 2017, forse scomparirà, nonostante il fatto che i partiti ancora non abbiano i bilanci trasparenti e nonostante il fatto che probabilmente i finanziamenti privati saranno anonimi, potranno essere anonimi. 45,5 milioni di finanziamento pubblico e Parenzo è a favore del finanziamento pubblico. Dimmi te se uno deve ascoltare tutte ste cazzate. Ah, cazzate. Cioè, ah, siamo in onda? I soldi incassati dai partiti, una cazzata. Finanziamento pubblico, una cazzata. Tutta sta demagogia qua, dimmi te. Vabbè. Allora, Castaldi 5 Stelle. È acceso il microfono dell'ospite? È acceso, è tutto acceso. No, non è tutto acceso. Non è tutto acceso. 5 Stelle, Castaldi. Sentite l'uso del congiuntivo di Castaldi. Noi abbiamo un malfunzionamento delle tessere solo del gruppo del Movimento 5 Stelle, se potrebbe cortesemente controllare, perché abbiamo provato anche con le Boccadutri card firmate da Renzi, per favore, assistenti, ma non funzionano. Se potrebbe controllare le carte. Insomma, non mettete in croce sto Castaldi. Sì, vabbè, ha fatto un errore di un congiuntivo. Insomma, dai. Allora, c'è stata la scissione dell'atomo nell'NCD, Parenzo, no? Ah, mi tocca anche. No, no, ma la cosa è in... chi è che ti sta toccando? Mi tocca l'ospite che è qua vicino. Ti sta toccando? Tocca. Beh... mi tocca la giacca, sente la, la nuova, la nuova, come dire, un nuovo incontro. Siccome la, c'è un la reunion, la reunion. Solo, la scena è questa, poi presenterai chi c'è. La scena è questa, c'è un microfono solo che funziona. Quindi si è dovuto avvicinare a me. Abbiamo veramente messo così le cuffie, pezze al culo che non abbiamo. E abbiamo, non ho detto io, e abbiamo io. Le bocche potenzialmente vicinissime al microfono entrambi. Cosa no? Incredibile. Allora, Quagliariello se n'è andato dal nuovo centrodestra. Chi è questo? No, Quagliariello non frega un cazzo a nessuno. No, no, però la cosa curiosa che è che una giornalista di Rai 3 senti che domanda che gli fa, senti, lui giustamente dice guardi che ho impressione che non gliene freghi una mano, non dice proprio così, ma insomma, come dire, per strada qualcuno lo incontra, gli fa i complimenti per la scelta, mi diceva che è il secondo hashtag della giornata il suo Ma insomma, il fatto che sia il secondo hashtag Quagliariello c'è da preoccuparsi. È un paese a pezzi. Secondo hashtag. Va bene, 800 24 00 24. Fra poco presentiamo l'ospite che accanto a Parenzo, cheek to cheek a Roma. Forse hanno aggiustato il microfono. Sì, sì, è tutto aggiustato, è un unico microfono. Siamo molto vicini ed è qui Alberto Torino, vai. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi, dimmi. Ma la notizia di oggi della bambina, il bambino di Belluno di 2 anni portato in ospedale perché faceva una dieta, vegana, no? Sì, sì. Ma io mi chiedo, ma sti genitori, ma dove, in che cazzo di mondo vivono? Cioè, c'è gente che fa fare la dieta vegana ai cani. Sì, a voglia, ci sono anche dei prodotti per cani, ma c'è gente che fa business su queste minchiate, eh? Cioè, c'è gente appunto, che giustamente fa business, magari non ci crede nemmeno, vegani, non sono manco vegani e fanno negozi, pasticcerie minchiate, perché devi dire minchiate? Ma è arrabbiato. No, già, stai già facendo arrabbiare l'ospite. Ma no, portare il cibo vegano a un bambino o un vegano a un cane. Sì. O Sgarbi mi dice errore di un condizionale. Sì, era il condizionale, non il congiuntivo. Capra. Errore di capra. Sì, vabbè, che è cazzo me ne frega. Berlusconi, un errore di grammatica, dai. Sì. Alberto, che stai dicendo? Dicevo, è come conoscere Berlusconi e portargli una GIF, no? Cioè vuol dire non capire un cazzo di bisogni di quello che ma sta dicendo. Ma guarda, io dico solo una cosa, la coppia di Firenze che era stata accusata di aver portato anche il bambino in ospedale con la dieta vegana, poi si è scoperto in realtà che il problema non era quello, dunque bisogna stare sempre molto attenti. Io resto alle parole di quello che ha preso questo bambino a Belluno, che ha detto che effettivamente c'è una mancanza di proteine animali, e questa è la sostanza, almeno così noi l'abbiamo presa in questo modo, poi magari scopriremo un'altra cosa, ma il business è molto chiaro, cioè ci sono persone che sulla follia vegana, sull'estremismo vegano, cioè il cibo vegano per i cani, fa i soldi e fanno bene a fare i soldi, fanno bene a fare i soldi. Certo, c'è convenzione di incapace, come Vanna Marchi quando vendeva i sale, sono d'accordo. Mario da Bari, poi l'ospite, Mario, vai. Mario, dimmi. Pronto, buonasera. Vai. Senti, io sto telefonando per quella discussione di quel povero Cristo che ha sparato su quei rom, giusto? Sì, sì. Vai. Io voglio sapere una cosa dal governo: se domani mattina dovesse scoppiare una guerra, noi italiani andremo a difendere che cosa? Ma che c'entra la guerra in questo caso? No, voglio dire, dobbiamo difendere l'Italia, ma io posso difendere la mia famiglia o no? Sì, tu devi difendere la tua famiglia, secondo ma me come? Sì, dentro casa. Se io ho il porto d'armi, io sono in campagna, vivo in campagna, ho il porto d'armi, a che cosa mi serve la pistola? Ma non so per ancora... sparare in aria, che cosa devo fare? No, per difenderti, devo... per difenderti dai ladri, da che chi? Ne so, dagli animali, che ne so io, Mario. Dagli animali? Vabbè, ma tu ma che gli faresti? Animali non attaccano, gli animali a me non mi attaccano. Okay. Io ho i pastori del Caucaso in campagna, non mi pastori attaccano. Del Caucaso. Stupendo, sono i pastori le del... persone, i delinquenti. E allora? Qui c'è gente che sta lasciando la campagna perché subiscono delle rapine in casa con i familiari. Ma tu che fai, Mario? Hai una pistola in casa, un fucile? Che c'è? Io vado a caccia, sono cacciatore, ho le armi. Se vengono a casa tua, che fai? Speriamo a Dio di non usarle mai. Certo, ma se vengono a casa tua un po' di ladri, un ladro, due, tre, quattro, cinque, che fai? L'ammazzo, perché devo fare? Mi faccio ammazzare? Ma ragazzi, ma com'è che si può dare torto a queste persone? E Mario dice, io sparo. Poi non è che stai a ragionare quando spari, giusto Mario? Scusa, se questi vengono armati, aspetto che mi ammazzano. Spari, come certo. È successo? A me in Puglia è successo. Sono stato aggredito, addirittura nascosto dietro le siepi. Sì. Hanno aspettato che arrivasse il marito, l'hanno preso, l'hanno picchiato, volevano la cassaforte. Insomma, sono andati in ospedale questa povera gente qui. Ora che cosa devono fare questa? Che erano in difesa, non avevano un'arma. Hanno venduto la campagna, si sono ritirati in paese. Non è sempre è il massimo della sicurezza avere un'arma. Spesso succede anche il contrario, che uno usa un'arma e l'ammazza, no? Appunto perché c'è un'arma. Io non però. Non ammazzo una persona perché lo so ragionare. No, non hai capito. Ho detto che se hai una pistola in mano, magari ti ammazzano. Forse ti ammazzano lo stesso anche senza pistola. Però comunque. Se vengono armati, vengono decisi. Va bene, Mario. Ciao. Ma Parenzo lo pagate voi per stare in trasmissione? La Zanzara. Grande ritorno alla Zanzara dopo un sacco di tempo, accanto a Parenzo a Roma, suo vecchio arcinemico di battaglie radiofoniche, il senatore di Forza Italia Mimmo Scilipoti. Buonasera. No, errore. Buonasera a voi. Errore. Isgro. Isgro. Come suona? Come cacofonico. Tutto attaccato? Staccato. Scilipoti. Scilipoti Isgro. Ma perché Isgro? Doppio cognome. Ma scusa Mimmo, adesso sciogliamo subito questa come cosa. Come stai? Bene, tu bene? Ti abbraccio fortissimo. Isgro, sto guardando un attimo l'origine. Dobbiamo dire prima di rivelare questa cosa su Isgro, diciamo una cosa fondamentale. Dobbiamo rilevare. No, Mimmo, tu sei stato assolto insieme a Razzi da quell'accusa di compravendita. Io dei cammino senatori. Sempre insieme a Razzi, non so perché cammino sempre. No, vabbè, insieme a Razzi perché eravate nello stesso procedimento, in questo perché senso. Eravate Scilipoti e Razzi, no? Come Cruciari e Parenzo, come Stanley Olio, come Bud Spencer e Terence Hill. Un gruppo quale potrebbe essere? No, in sostituzione so, di Scilipoti di Razzi, Scilipoti. No, Danna Barani. Danna Barani ormai sono la nuova coppia. Ah, sì, un'altra coppia, sì. Poi non ci sono altre coppie. Beh, sì, ce ne saranno pure Napolitano Renzi, per esempio. Napolitano Monti, direi. Adesso ne parliamo di questa gazzarra incredibile che hai fatto di fronte a un padre della Repubblica. Ma che gazzarra? Un signore, peraltro anziano, parla più vicino al microfono. Mi sono comportato benissimo, mi sono permesso soltanto di portare una letterina che c'era scritto 2011. Ma scritto 2011, alzava un cartello con scritto 2011. Ma ti pare che ti metti davanti corpo a corpo a uno? Visto che non mi fai parlare mai. Ma ancora questo. Io stavo dicendo, mi sono permesso di portare un fogliettino con scritto 2011 al presidente Napolitano. Quanti anni ha il presidente Napolitano? Come gli altri chiedevano che cos'è questo foglietto, e io voglio essere chiaro, ho preso il foglietto, un altro foglietto che avevo in tasca e l'ho alzato per dire c'è scritto 2011. È una gazzarra che si può scatenare di fronte a un ex presidente della Repubblica, a un padre della patria, a un uomo anziano di 80, quanti anni ha? 86? Quanto gliene hai tolti? 5? Quanti ne ha? Ma 91. Sembra più giovane di te. No, non è mio zio per niente, perché manco l'ho visto una volta. A lui piace Napolitano. Non è vero. Beh, Napolitano è un padre della patria, certo. Non ha un fidanzato di più. Lo sai Napolitano quanto ci costa, Parenzo? Sai Napolitano quanto ci costa? L'inchiesta di Libero di oggi. L'inchiesta di Libero di oggi l'ho vista. E l'appartamento a Palazzo Giustini, l'ho letta nei dettagli. Allora io vi dico solo questo, vi faccio subito questo elenco. Stipendio. Stia zitto un attimo. Libero di oggi, la roba di Libero. Stipendio da 15.000 euro netti al mese. Un consigliere, un portavoce, ufficio di un centinaio di metri quadri con terrazza a Palazzo Giustiniani, un capo ufficio, tre funzionari, due addetti ai lavori esecutivi, due addetti ai lavori ausiliari. Un consigliere diplomatico militare, maggiordomo, guardarobiere, auto con autista, scorta, linee telefoniche protette, viaggi gratuiti, eccetera, eccetera. Tutto questo per un ex, ma anche gli altri ex presidenti della Repubblica. Sono vecchie privilegi di presidente. Basta. Togliamo tutte queste cose. Un ex presidente della Repubblica deve stare a casa in pensione, non al Senato ancora a dire la sua. Basta con queste robe. Discorso. Ma è così, basta con queste puttanate. Ma sei matto forte. Ma scusi, ma negli altri paesi funziona così. No, non funziona. Perché ancora dobbiamo avere queste robe noi? Perché dobbiamo pagare per Napolitano o per altri ancora? Basta con queste cose. Bisogna porre fine a questa roba qua. Oh. Cioè, l'hai messo in difficoltà, Parenzo. Scusami, no, Mimmo, secondo te no? Anche perché un autista e una macchina è a disposizione di Parenzo. Sì, magari. Sì. Ma ho appena preso la patente. Ma quando mi hai visto in macchina? Ma tu non guidi, tant'è vero che c'è l'autista. Io ho una piccola parte, una piccola macchina. L'autista, è l'autista che ti accompagna. L'autista di Napolitano. Cioè, quella è la diffamazione. Cioè, ma guarda, una cosa Scilipoti non ha mai cambiato passo. La diffamazione. Ti sto dicendo. Cioè, l'onorevole Isgro. Perché Isgro? Si può sapere perché Isgro? Bello però, Isgro. Ma se sai come si chiamasse Parenzo Bubù, improvvisamente. Metti il secondo cognome Bubù. Ma perché Bubù è un problema? Ma scusi, perché chiamarsi Bubù è un'offesa? Questo è un problema tuo, non mio. Ma dico Isgro e Bubù. Ma che cos'è? Un nome nobiliare? Cos'è Isgro? È un nome nobiliare. Perché uno si aggiunge un cognome in più? Perché? Come se perché si aggiunge un cognome? È una domanda legittima, perché uno si aggiunge un cognome? La prossima volta tu che sei qua te lo spiego. Domenico, detto Mimmo Scilipoti, no? No, detto Mimmo. Improvvisamente sei diventato Domenico, detto Mimmo Scilipoti, Isgro. Hai fatto anche al Senato, alla Camera, cambiare tutta la procedura, cambiare il logo sul sito, al Senato, altri soldi spesi, ristampato il tesserino. Isgro, chiamatemi Isgro, quel povero grasso che prima combatteva la mafia e ora deve combattere i senatori come te, è lì. Isgro, ma che roba è? Ma si può far perdere tempo così? Ma si può secondo te far perdere tempo? Posso fare un'intervista seria? Hai ragione, Mimmo. Allora chiedigli tu perché si chiama Isgro. La domanda è questa. Tu. Ok, Scilipoti, facciamo così. Scilipoti Isgro. Sì, Scilipoti Isgro. Puoi chiedere perché? Però perché l'hai cambiato? Perché hai aggiunto Isgro? Non l'ho cambiato, l'ho perché aggiunto? Hai aggiunto? Perché è il cognome di papà. Ma vabbè, ho capito, ma che te ma scusa. L'hai fatto per far dimenticare. Tu stai dicendo delle cose non capendo di che cosa stai parlando. Perché prima se tu qua si chiama Isgro, mio padre si chiama Parenzo e io infatti mi chiamo Parenzo. Perché per te è molto complicato capire. Non è complicato. Io mi chiamo Parenzo. Se un domani dico ho aggiunto anche Bubù. Scusa, la scuola media non l'hai fatta, sei rimasta alle verità. Non sei riuscita a capire. Perché oggi uno ti dice che Isgro è il nome di papà. Vabbè, ho capito, ma è difficile e complicato da capire. Ora, questo è un fatto personale. Parliamo di politica. Scilipoti era il nome della madre, erano separati. Ma siccome è un fatto politico che hai rotto i coglioni al Senato per cambiare il cognome, capirai che è un fatto politico, no? Luciani, scusa, tu pensi che io possa parlare? Poi chiediglielo tu allora. Davide, stai un attimo. Io, senatore della Repubblica, posso parlare questo linguaggio con un certo Parenzo. Hai ragione. Parenzo, come si chiama? Hai tutta la mia solidarietà. Scusa, dobbiamo parlare di cose serie. E lui cosa fa? Parla di sciocchezze. Però che la butta sempre in bagarre. No, d'accordo, però diamo una parola definitiva a questa questione. Perché hai fatto aggiungere? Ma tu lo riesci a vedere da là? Perché sì, lo vedo. Perché hai visto com'è spaparazzato sulla sedia, come si comporta? Perché hai fatto aggiungere Isgro? Perché hai fatto aggiungere Isgro? Seriamente, adesso Parenzo, stai zitto. Mi farebbe piacere parlarne qualche altra volta, ma parlando solo di questa. Ma ho capito perché hai fatto aggiungere, perché hai voluto dare una nuova immagine, Ti ho detto la mia riflessione già porta a, cioè ti faceva schifo un pensiero. Scilipoti ti faceva schifo, solo dico, anche tu utilizzi una terminologia poco felice e mi dispiace che parli questo linguaggio. Sto dicendo per la seconda volta che il cognome Isgro è il cognome di mio padre. Ma anche Scilipoti è il cognome di tuo padre, però scusami. Punto. Ora se tu vuoi parlare di cose serie, parliamo di cose serie. Se tu vuoi ancora giocare su argomenti seri e delicati, che per me sono molto delicati. Ma Scilipoti è il nome di tuo padre? Mi dispiace che tu continui ancora su questa strada, perché vuol dire che non hai altri argomenti per parlare, né tu né Parenzo. Dico, come al solito, siamo sempre di soliti e qua non parliamo di cose serie, ma andiamo su una cosa seria. Di altri argomenti. Andiamo su una cosa seria. Sono serissimi. Vabbè, però vedi che stai insistendo tu. Ma che cacciara? Non la prometto. Basta, chiuso l'argomento. Parliamo di altri argomenti. Non la buttiamo. Vuoi parlare di Napolitano? No. Vuoi parlare delle tue macchine? Non la buttiamo. Vuoi parlare della tua omosessualità? Chi è l'omosessualità? Di che cosa vuoi parlare? Della mia omosessualità. Secondo te Napolitano è un golpista? Secondo te Napolitano è un golpista? C'è scritto così. Ma però Mimmo, lo vedi che sei tu a fare casino. Così. È vero o non è vero? No, non è vero, non è omosessuale. Ma fai rispondere a lui, scusa. È vero o non è vero? Ma ti rendi conto che ma scusa, però. Risponde alla mia Cruciani, domanda. Ti rendi conto che è pazzo? Sei omosessuale o no? Ma ti rendi conto? Ma rispondi. Cioè, il senatore della Repubblica. Ma scusa, va, cioè, il senatore rispondi. Arriva qui siccome al sole 24 ore. Ma scusa, questo dice, è l'argomento che affronteremo fra qualche giorno. Omosessuale. Va bene, questo mi fa già piacere, allora, perché visto che sei così vicino, avevo qualche paura. Perché ti chiami sgro? Ho dovuto forzare la mano per stare tranquillo, per capire che tu non hai aggiunto sgro. Continuiamo, prego, Parenzo, che mi stavi chiedendo? Perché hai aggiunto sgro? Che cosa mi stavi chiedendo? Scusa, no, Parenzo. Allora, Mimo, sì. Allora, scusate, ma secondo te Napolitano è un golpista? Silenzio. Ma che è un golpista? Siamo alla radio, eh? È uno statista, deve riflettere prima di rispondere. Allora, prego, scusi, forse sgro. Statista no, ma qualcosa golpista. In più di te la capisco. Prego, golpista. È un golpista. Chi è golpista? No, Napolitano. L'hai detto tu. Ha detto Parenzo che Napolitano è un golpista. No, l'ha detto lui. Ma sì, perché non lo chiedo. No, l'hai detto tu. Però la vuoi buttare in cacciara anche tu. Io sto ripetendo ciò che ha detto Parenzo. È un golpista, sì o no, Napolitano? È un golpista o no, secondo te? Ma io non lo so, non tocca a me decidere se è golpista o meno. Io ho fatto delle riflessioni, come tutti in questi giorni stanno facendo delle riflessioni, sul 2011. Il 2011 è stata una data particolare per l'Italia. Sicuramente il comportamento di Napolitano, a nostro giudizio, poteva essere diverso di quello che è stato. Vabbè, però adesso qui non ma siamo. Ma che vuol dire sta cosa? Cioè, che sembra la democrazia cristiana? Ma non già tu sei quello che hai fatto la quinta elementare. E quindi prenderemo in seria considerazione la domanda che lei ha fatto, faremo una riflessione approfondita su questo fatto e valuteremo se il comportamento di Napolitano è stato tecnicamente ineccepibile oppure no. Ma che cazzo è sta roba? Tu sei democristiano comunista. Ma tu parli in questo modo. Io sono democristiano e tu comunista. Ma tu ti rendi conto? Ma io sono democristiano e tu comunista. Vai avanti tu, dai. Ma scusa, vai. Ragazzi, adesso abbiamo la pubblicità. Dopo abbiamo pochi minuti ancora. E come al solito. Ma l'avete, pochi, l'avete scusa, buttata già abbiamo in... già finito. No, non abbiamo cioè, finito. Mi avete invitato in trasmissione per parlare di niente. Scusa, avete scusa, già finito. Ti abbiamo chiesto allora, il nome di Sgro un'altra volta, non lo vuoi no, dire. Per continuare non a lo vuoi dire, non no. Vuoi dire Sgro. Non vuoi parlare del golpe no, di ancora, Napolitano, no, amico di mio. Colpe dai. Di Napolitano, dai, colpe di Napolitano. Golpe, golpe. Se era colpista. Colpe, colpe, io ho capito colpe, colpe. Colpe, golpe, golpe. Vabbè, pubblicità, dai, fermo, fermo lì, restate lì. Parenzo, Parenzo, la Paranza è, non Parenzo, la Paranza. La Zanzara. Mitologico scontro a Matrix ieri sera tra Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia, detto anche il Celeste, e Niki Vendola, l'uomo che becca un bel vitalizio, l'ha tagliato agli altri e non a se stesso. Devo dire la verità, io in questo caso sono dalla parte a spada tratta di Nicolino Vendola. Quei bambini lì sono figli di uno dei maschi. E lei è contrario che l'altro. Mi lasci spiegare. Sì. Quei bambini lì sono figli di uno dei maschi messi al mondo con una donna. L'altro non c'entra niente nell'aver messo al mondo questi due. No, no, no. Perché c'era il primo papà e c'è la mamma americana o brasiliana o indiana. Allora, guardi, scusami, solo, se avessimo detto che Gesù è figliastro di San Giuseppe. Ti pensa non bestemmiare, sì, no, per lo meno no, non bestemmiare, ok? Stai non parlando, bestemmiare, stai parlando di bimbi non veri. Bestemmiare, no, tu hai bestemmiato. Dovrei. Okay. Stupendo, la religione cattolica fondata sostanzialmente sull'eterologa, dice Vendola, meraviglioso, stupendo, Gesù figliastro di San Giuseppe, stupendo. Poi lo sperma, non è che lo dico io, lo dice Vendola, a Formigoni, sei ossessionato dallo sperma, si può essere padri, dei buoni padri, anche senza l'utilizzazione dello sperma per fare i figli, cioè si può essere padri anche senza averli procreati. Mi proclami cattolico ma hai bestemmiato. No, non bestemmiato. Riconoscilo. Non ho bestemmiato. Hai bestemmiato. Perché, no, perché se sei tu, cattolico come dici di perché essere. Perché c'hai un'ossessione. Hai una bestemmia. No, so. Finisce. Cioè, hai un'ossessione che è quella dello non sperma. Non ho nessuna ossessione. Genitore. Non ho nessuna ossessione. Genitore non è un fatto biologico. Ah no. Genitore è anche biologico. La genitorialità è crescere, educare, amare. Sì. Non lo crescere chi hai è messo al mondo. Chi hai messo al mondo. Andiamo con noi in studio, accanto a Parenzo, il senatore Domenico Scilipoti Isgro, stavolta sono stato corretto, Mimmo. Bravo, bravo. Domenico bravo. Scilipoti Isgro, Forza Italia, che l'altro giorno al Senato, durante la discussione sulla riforma del Senato, ha esposto un cartello 2011. Una gazzarra con un'altra no, ma che gazzarra, ha messo un cartello dicendo che sostanzialmente nel 2011 c'è stata una specie di golpe. Adesso non vuole dire questa cosa golpe, vabbè, ognuno. Comunque, dice... la cosa più interessante è che dietro al vetro della nostra regia romana c'è un amico di Scilipoti. Sì. che è un personaggio straordinario che invece io vorrei anche lui intervistare, perché non te lo posso descrivere, che è straordinario, ha anche un anello meraviglioso. Ma anch'io ho quattro anelli, qual è il problema? No, ma è curioso. Mimo, tu sei a favore? C'ha anche, c'ha, sì. No, ha fatto un gesto che non so se si può ripetere, posso ripeterlo? Sì, ripetilo, ripetilo. Ha fatto vedere che ha detto, no, non è vero. Ha detto c'ho anche una. Tu stai esagerando, tu sei un problema. Venga, venga in studio. Posso parlare che venga in studio, ragazzi, non facciamo casino, dai. Tu sei un personaggio fortissimo. Ma se tu devi parlare con me, che c'entra? Ma non lo so, fa casino. Dai, ma hai visto che Cruciani, se fosse qua, farebbe la stessa cosa che sto per fare io. Ma tu non fai il giornalista. Comunque andiamo avanti. Mimo, l'adozione gay, sei d'accordo? Senti Cruciani. Sei d'accordo con l'adozione gay? Senti Cruciani. Tu è ospite e invece non fai altro che casino. Lei è a favore dell'adozione? Lei è a favore dell'adozione gay, senatore? Io se sono a favore. E chi? Siamo in due qui. Io non sono a favore, sono contrario. Sei contrario, Perché sei contrario? Perché sei contrario? Con quali argomenti è contrario all'adozione? Potremmo parlare di argomenti seri, anche questo non va bene. Potremmo parlare di famiglia, ma per te diventa difficile perché non fai altro che sorridere e pensare che tutti quelli che la pensano diversamente da te sono tutti scemi e tu sei intelligente. Invece tu leggermente hai qualche piccolo difettuccio, che è quello di comprendere gli altri. Sì. Cioè pensi di capire, ma molte volte non capisci. Allora questo problema è un problema delicatissimo, che ieri tutte e due, sia l'uno che l'altro, affrontavano cercando di sostenere determinate tesi. Noi che proveniamo da una cultura cristiana pensiamo che la famiglia sia la prima cellula. Che cosa? Stiamo sentendo. La faccia da Ebbe. Disperato. Intanto l'amico di Scirifoti dietro il vetro è disperato e vorrebbe tirarmi una mazzata sulla testa. Perché ha la mano, ha due mani in faccia, si strugge dire... tutto. Vabbè, allora, dire... Mimo, dai, forza. Vorrebbe tirare una mazzata sulla testa a chi? No, vai, rispondi. Senti Cruciani. Allora, non ho capito, tu ce li vedi insieme? Un bambino, un bambino insieme a due uomini, ce lo vedi tu? Certo, mi diventa difficile vedere te insieme a un altro uomo. Io? No, tu non tu, tu Parenzo, perché lui di fronte a me. Mi diventa difficile. Eterosessuale. Non riusci... No, cioè, eterosessuale mi fa piacere tu stasera. Ma perché non ti piacciono gli omosessuali, Mimmo? Non ho capito perché non ti piacciono. Ma perché chi ha detto che non mi piacciono? Scusa, tu mi stai facendo dire... Hai detto che sono contro natura una volta, l'omosessualità. Tu mi stai facendo dire tu mi stai facendo dire ora in questo momento ci hai ripensato? Tu mi hai fatto una domanda, io ti sto rispondendo, io non ho niente contro nessuno. D'accordo. Ognuno è libero di fare ciò che vuole e né io sono chi sono io per giudicare, cioè dire che cosa questo debbo, lo diceva il Papa, però io non devo giudicare nessuno, io posso dire, posso sostenere quello che io penso, siccome sono un cristiano penso determinate cose. E che pensi sui gay? Che sono contro natura? Ma io non penso niente, io penso che la famiglia, la famiglia. No, ma sui gay, secondo te sono uno scherzo della natura, un capriccio, sono contro natura? Ma nessuno sta dicendo, tu stai dicendo delle cose ma che io detto non una mai volta. Detto. Io non sto dicendo, non sto facendo simili affermazioni, stai facendo tu, sono delle affermazioni gratuite, io ho il massimo di rispetto per i gay a 360 gradi. E sostengo 360 gradi per dire sono completamente a favore della libertà di ognuno di fare quello che vuole, certo. Punto. E sono per la famiglia tradizionale, cioè la famiglia per me viene intesa uomo-donna, per una serie di motivazioni, ma non è che soltanto perché ma due io uomini sono per, secondo te non può essere non un possono contratto allevare un legale, bambino ma non... io... Non possono crescere un bambino due uomini o due donne? Ma dipende. La famiglia è quella che secondo me dovrebbe essere privilegiata, se poi in ma alcuni casi eccezionalmente un bambino in alcuni casi, ma posso finire di parlare? Sì, dimmi. Se in alcuni casi eccezionalmente viene affidato un bambino a due donne o a due donne o a due uomini non succede niente, non è la fine del mondo, ma normalmente la famiglia è quella tradizionale fra uomo e donna per una serie di motivazioni. Vabbè, e questo io lo sostengo sia come medico e sia anche medico, dal punto medico di vista. Perché medico? Perché prima esercitavo l'attività di medico, esercitavo l'attività di ginecologo, di ostetrico, la mia esperienza mi porta a sostenere questa tesi che sto sostenendo in questo momento. Perché mi porta a sostenere questa tesi. Se per te non è molto importante il fatto che io nel passato sia stato ginecologo, a proposito, Parenzo, non ha nessun ma fammi finire Parenzo di parlare. Sta per nascere un altro figlio. Ma scusa, ma se tu mi interrompi in ogni momento, come vuoi che io finisca il mio ragionamento? Cioè dire, mi dispiace per te, Cruciani. Poi dico, la possiamo buttare anche qua in confusione, in gazzarra. Ma se dobbiamo parlare un attimo serio, possiamo anche parlare seri. Perché anch'io ho qualcosa da dire, ho qualcosa da sostenere. Poi potrebbe essere non condivisibile da te. Ma non ho capito nemmeno quella tua posizione. Non potrebbe, sicuramente. Ma non l'abbiamo capito, questo è il problema. Fammi finire, anzi, sicuramente non sarà condivisibile. Bene, ognuno resterà sulla propria posizione. Vuol dire che gli altri poi giudicheranno quale sarà la scelta giusta o la scelta da portare avanti. Mimo, scusa un attimo, Parenzo ha un problema alla schiena. Puoi controllare un attimo che c'ha? Io non capisco l'espressione che fa. Il problema alla schiena che tu dici, vedi, per tanto tempo sia tu che il nostro amico Parenzo hanno giocato sempre su tutte quelle che erano le discipline olistiche. Posso parlare? Olistiche, le discipline olistiche, le discipline naturali, a partire dico dall'acupuntura a continuare con la moxibustione. Qualche giorno fa, scusa, tu sei un ignorante, stai zitto. No, ma non capisco la moxibustione. Ma anche gli altri lo sanno. La moxibustione, non so che cos'è. La allora, qualche giorno fa, incredibile, c'è stato un medico che ha vinto la foto del personaggio che ha vinto il premio Nobel per aver fatto degli studi sull'Artemisia. L'Artemisia non è altra che la Ma ho un ignorante accanto a me che non capisce. Perché Cruciani sa cos'è l'Artemisia, secondo te? Ma scusa, non leggi i giornali che un paio di giorni fa è stato dato il premio Nobel a un medico che ha utilizzato l'Artemisia e ha fatto delle ricerche sull'Artemisia? Sì. E allora, quando dire perché? Tu sei un seguace dell'Artemisia? No, io ho scritto due libri sull'Artemisia e mi occupavo, oggi non mi occupo più, dell'applicazione dei protocolli terapeutici attraverso l'Artemisia, che può essere fatta attraverso la moxibustione e come trattamento naturale, cioè dire fitoterapia. Perché non fai quello piuttosto che il senatore? Siccome non hai voglia di parlare serio come al solito e cerchi soltanto di delegittimare, Parenzo altrettanto, anche io Parenzo, vi dico sempre. È l'erba magica contro il tumore, vi ringrazio, però gli anni, erba magica cioè non è per voi, non può essere, però erba magica non si può sentire, no, su queste cose serie erba magica ti assicuro mi manda i matti. Ma non si può. Allora, erba magica, perché il tumore è una roba seria. Io non lo posso sentire. L'erba magica. Chiedo scusa se mi arrabbio. Posso parlare? L'Artemisia, è vero che l'erba magica contro il tumore, è vero? No? Allora, stavo cercando di dire, perché Parenzo non fa altro che boicottarmi in tutto e per tutto. Allora, il discorso qual è? Alla fine di questa serata, che cosa devo dedurre? Non lo so, che gli anni per voi, questi due anni che non ci vedevamo, sentivamo, non sono serviti a niente. A nulla. Siete diventati non come il vino buono nelle botti, ma siete diventati come il vino che lasciato nelle botti è peggiorato. Oltre che peggiorato, è diventato. Ma è vero che con l'erba magica si può guarire dal tumore? Ma vedi, questa terminologia è erba magica, perché significa erba magica? Cioè, tu non credi alla chemioterapia, queste robe qua? Che significa non credo alla chemioterapia? No, come cosa per di guarire? Di cosa stai parlando? Scusa, ma per tu parli di argomenti seri, che la gente che ci ascolta, ci sarà pure qualcuno che poveraccio è afflitto da neoplasia e tu parli di questi argomenti. A te piaceva Di Bella, Di Bella una volta. Ma che significa a me piaceva Di Bella? Ma perché siete come tutti i giornalisti che cercate in una battuta di delegittimare il lavoro di professionisti seri come il professor Luigi Di Bella che sosteneva una cosa e invece poi hanno detto che ne sosteneva un'altra? Per alcune cose, quello che sosteneva. Quello che sosteneva il professor Luigi Di Bella in alcune cose è stato ed è utile perché lui utilizzava che il protocollo che lui e l'MDB doveva essere utilizzato insieme alla alla chemioterapia e alla radioterapia. Se tu non dai un'informazione corretta fai dei danni irreparabili. Virgoletto questa parola, in questo momento sei un criminale. Sono un criminale, non la gente che si rivolgeva ai maghi. Non stiamo dicendo questo, ti sto sostenendo un'altra tesi. Il professor Luigi Di Bella sosteneva che il protocollo andava abbinato alla chemioterapia. Chi utilizzava solo ed esclusivamente quel protocollo era fuori da quello che diceva il professor Luigi Di Bella. C'è stato un complotto contro Di Bella. Tu stai dicendo delle sciocchezze. E c'è stato un complotto contro Di Bella. sai di che cosa parli. C'è non stato un complotto contro di me. Non sto dicendo questo, sto dicendo un'altra cosa. Vabbè, tu Mimmo, stai facendo delle affermazioni gratuite. Ma quali gratuite? E irresponsabili. Sono un criminale. Io sto dicendo un'altra cosa. Io sto dicendo che il protocollo. Ma non possiamo parlare di Di Bella alle 20:11. Ma non stiamo parlando di Di Bella. Sto facendo una precisazione che il protocollo, l'MDB, andava utilizzato e va utilizzato insieme alla chemioterapia, insieme alla radioterapia, insieme alla chirurgia, che cosa ben diversa da quello che spacciavano in giro. Allora per molte cose era utile, per molte altre cose non era utile. Fatto sta che per la scienza ufficiale nessuno sta dicendo non stiamo discutendo di quello che è stato il risultato. È tardi. Discutendo di altri argomenti. È tardi, arrivederci. Molto delicato. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Tu ti devi fare le punture di risanamento del cervello. La Zanzara. Ma io non ho capito, c'è ancora intorno la Mimmo? Parenzo, direttore, si può sapere? Hai portato uno, Parenzo. Sei stato gentilissimo. Ci ma mai dato del criminale? Mai dato del criminale? Sai, ma nel criminale c'è molta gente che sta ascoltando. Quando tu sostieni delle tesi completamente sbagliate, diventano. Ma che tesi? Tu credevi in una cosa che si è rivelata sbagliata, no, scusa, punto tu, e basta. No, dai. Tu stai dicendo delle cose sbagliate e continui a insistere su un percorso sbagliato. Mai dato del criminale? Ma smettila. Se mi fai parlare, hai detto forse, criminale, sei un criminale. Scusa, se tu mi fai parlare, forse ti renderai conto. Ma è complessa la cosa. È complessa la cosa. Semplicissima. Qual è semplicissima? Qual è? La multiterapia biologica, cioè biologica, sì, applicata insieme alla chirurgia. Ma non è quello che sosteneva Di Bella, senti, non è quello. Non è quello che sosteneva Di Bella. Parlare, per favore, che c'è gente che ti sta ascoltando. E allora? E c'è allora? Qualcuno forse che utilizza l'MDB dietro il ma io non stavo dicendo questo, stavo dicendo un'altra cosa. Cretinate, ti prego di ascoltare un minuto. No, tu mi hai dato del criminale, capito? Sei mai dato un criminale quando tu parli di argomenti che non conosci con grande superficialità. No, io ho detto semplicemente che tu credevi in una cosa che si è rivelata sbagliata, basta. Quando parli di argomenti che potrebbero incidere ma sulla salute incidere, delle persone, ma non dire cretinate, perché stai continuando a dire cretinate e continua ad essere criminale. Ma che criminale? Allora, se criminale sei tu che credevi in una cosa che si è rivelata sbagliata. No, non ti do nessuna possibilità. No, perché allora non sei criminale, sei oltre che criminale, perché oh, non oltre, mi dai la cosa possibilità sono, no. di non mi dai la possibilità no, di chiarire non... una riflessione. Ma l'hai già detto, mille volte, l'hai già spiegato. Hai detto delle cose sbagliate. La multiterapia biologica va applicata insieme alla chirurgia. Questo l'abbiamo capito, ma io non parlavo di questo. Insieme alla chirurgia, insieme alla radioterapia, insieme alla chemioterapia. All'epoca non lo diceva. Tu sei un criminale. Ma criminale quando sei tu. Parli di argomenti che non conosci. Criminale sei tu. Sei un criminale quando parli di argomenti che non conosci e quando tratti con la salute della gente. Ma chi tratta con le salute? Di ma gente chi tratta? Che è affetta da patologie. Ma io non ho detto nulla. Sei un criminale. Sei ciao, un criminale. Ti saluto. Com'è che sono? Com'è che sono? Per la mia avvenenza. No, ma come chiedo sono? Scusa, come sono? Per il mio linguaggio. Come sono? Però, Mimmo, come sono? Quando voi utilizzate questo linguaggio e parlate di argomenti seri e che c'è persone dietro una radiolina che vi stanno ascoltando. Sono un sono afflitti da patologie tumorali e voi parlate con questo linguaggio, siete criminali. Ciao, ti abbraccio. Traffico. Tu che fai quando vai a dormire? I sogni traffico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Ragazzi, vai, Lucia, provincia di Genova, vai. Lucia. Luciani, buonasera. Dimmi. Volevo sapere i pareri di Parenzo, o il Parenzo di parere, sull'invito che ha fatto la Boldrini all'imam Al-Tayeb, un nome così. Sì, ho letto anch'io, appunto. Una vergogna. La sparizione, ecco. A tenere una lezione magistrale a Montecitorio. Sì, una vergogna. La Boldrini, o comunque la Camera, ha invitato un signore, un imam arabo, a parlare alla Camera. E questo signore è uno di quelli che sostiene che Israele va distrutto, deve sparire, eccetera, eccetera. Vabbè, questo non dovrebbe manco entrare in Italia, a mio parere, però insomma, è molto grave. Che vogliamo fare? Roberto, Venezia, sono d'accordo vai. Con lei. Roberto. Sì, pronto? Sì, dimmi. Sì, niente, io volevo dire una cosa solo a Parenzo, perché è incredibile, lui è incredibile, comunista, e io sono uno di quei somari che lui dice. Sì. E è incredibile perché lui appoggia quelli che hanno il vitalizio, e perché è giusto che abbiano il vitalizio. Non è così. Euro al mese, è giusto, no? Non è così. Sì, sì. Parenzo, tu vuoi solamente una riduzione, vuoi una piccola riduzione, ma sei a favore del mantenimento del vitalizio. No, no, non sono a favore del mantenimento del vitalizio, non è così. Va bene. Non ho sostenuto questo. Mio padre ha lavorato 40 anni a 1.050 euro al mese, però è giusto. 7.200, poverino. Non ho mai sostenuto questo. Ma anche. Poi a favore di cose. Come che ha detto l'altra volta, cioè i rom, poverini, facciamo anche la lista anche per i rom. Capisco, cioè, se fossero rifugiati di guerra, ecco, ma i rom che abbiamo qua, mi sono venuti a rubare 3 mesi fa, mi hanno defecato sul letto. Ancora. Ecco, ma sembra una pratica diffusa. Con la coperta della bimba, ecco, questi che sono... hanno fatto, Roberto? No, scusa, era già stato segnalato una volta. Il culo, però. Con la coperta della bimba, ma non è lo stesso, ecco, che ha chiamato tempo fa. Già tempo fa ci fu un episodio simile. Ecco, perché cioè, dove hanno cagato sti rom? Sopra il letto. Proprio sì. Me la sono trovata lì, proprio beata, là, fumante, ecco. E si sono pulite il culo con la coperta della bimba. Ecco, questi sono i personaggi che, poverino, volevo dire. Va però, ma quando è successo questo episodio? Quando è successo questo? Tre mesi fa. E sono rom sicuro? Sì, perché avevamo il campo vicino e non sono, sono stato dei criminali. Ho avuto la visita. Va bene, Lello, quindi Bari. Hanno rubato e poi hanno cagato lì. Lello da Bari, vai. Terribile. Lello? Pronto, sì, buonasera. Buonasera. No, chiamavo, sono Lello Sampolito, senatore del Movimento 5 Stelle. Ah, ciao. Dunque, buonasera Cruciani. Volevo solo precisare, ho sentito che avete dato la notizia del bambino del bambino vegano ricoverato, sì. Esattamente, sì. E mi sono premurato di contattare l'ospedale di Belluno, ho parlato col direttore medico che mi ha riferito che il caso si tratta comunque di un caso che è accaduto tra giugno e luglio e che non è fondata la notizia per cui il bambino avrebbe avuto problemi di svezzamento perché vegano. No, ma tu stai parlando di Firenze o di Belluno? Belluno. Io ho letto la notizia stamattina, il seguito delle notizie, ovviamente i medici stanno approfondendo, però i titoli di tutti i giornali erano così, cioè ricoverato un bambino di 2 anni per la mancanza di proteine animali perché faceva la dieta vegana. Col medico che diceva che bisogna stare attenti, eccetera, eccetera. E ho capito, però io ho chiesto espressamente se fosse un problema legato a un'alimentazione di tipo vegana e me l'hanno completamente escluso. E questa è una notizia importante da dare, nel senso che se i medici di Belluno che hai sentito. Ho parlato 20 minuti fa col direttore medico, mi ero premurato proprio di chiamare per capire quale fosse la reale situazione, anche perché precedentemente avevo contattato anche il giornalista del Gazzettino di Belluno che aveva rilasciato. Ma com'è che tu da pugliese, perché sei vegano, ti interessi di queste cose? Ma no, vabbè, diciamo che la notizia è di interesse nazionale. Certo. Immagino che sarai anche vegano, che ne so. Io personalmente seguo un'alimentazione vegana, però poteva essere, cioè anzi, era importante sapere, vabbè, innanzitutto le condizioni del bambino, la cosa principale, che comunque non sto dicendo che hai fatto male a informarti, semplicemente il bambino sta bene, almeno per quello che mi hanno detto, e comunque si tratta di una situazione di giugno e luglio, però io ho fatto espressamente questa domanda, è una questione che può essere legata a un tipo di svezzamento vegano. E me l'hanno escluso, cioè la direzione medica mi ha detto. Scusa, che ma il titolo di tutti i giornali online: dieta vegana al bambino di 2 anni. Ricoverato in ospedale è gravissimo. C'è un tizio che parla, un primario, Memo. Nel primo anno di età, questa dieta è totalmente sconsigliata. C'è il rischio di gravi scompensi. Chi proprio la volesse per i figli farà bene a farlo sotto osservazione di un nutrizionista. Io gli dico che ho parlato col direttore medico. E la domanda che ho fatto è questa, per essere più preciso possibile. Allora mi ha detto che è un problema. Ma legato allo svezzamento, punto. E io ho ribadito, ho detto: ma chiedo scusa, giusto per essere preciso, è legato a una questione di uno svezzamento che è avvenuto con un'alimentazione a base esclusivamente vegetale? La risposta è no. E perché è stato ricoverato allora? No, mi ha spiegato che è stato ricoverato per un problema di svezzamento, ma che capita anche ad altri bambini, cioè quando c'è il passaggio dal latte materno ad altri. Dunque, diciamo, c'è stata un'informazione sbagliata da questo punto di vista. Eh sì, anche perché poi io ho contattato anche il giornalista del Gazzettino . E quando gli ho fatto qualche domanda per essere certo di quello che stava accadendo prima ancora di contattare... Io online però, tu Twitter eccetera, un bimbo vegano di 2 anni è ricoverato all'ospedale di Belluno per carenze alimentari. Questo allo stato, allora, il giornalista mi ha risposto così, ha detto: io adesso non so neanche cosa significa esattamente alimentazione vegana. Questo è quello che mi ha detto il giornalista. Però, indipendentemente da questo, la notizia che credo sia più... Che il bambino sta bene. Il bambino sta bene e che il direttore medico ha precisato che non si tratta di un problema legato all'alimentazione vegana. Io volevo che fosse chiaro. Grazie, questo. grazie. Allora, prima dell'interruzione voglio salutare, abbracciare, so che sta meglio, è uscito dall'ospedale, è successo pure una cosa strana di cui parleremo naturalmente. Scialpi è con noi, ciao! Ciao, la voce piano piano mi sta tornando. Come stai? Non mi è mai andata via del tutto, ho avuto la voce un po' flebile in questi 2 giorni. Mi hanno detto, sì, mi hanno detto. Mi sto riprendendo. Senti, ma che ti hanno messo? Un bypass? Che ti hanno messo? Sì, ho avuto il blocco atrioventricolare completo, per cui praticamente il cuore era quasi fermo, tranne perché per un quarto, per cui mi hanno messo Luigi, l'ho denominato così. Luigi? Luigi è il mio nuovo bypass, pacemaker. Scusate, no. Potevi intitolarlo al tuo marito, al tuo compagno, come si chiama? No, perché già c'è Roberto, la famiglia si è allargata. Roberto II, il tuo figlio. Giovanni, Roberto e Luigi, e di conseguenza adesso con Luigi gli ho già chiesto che vuole per cena. Adesso allora però specifichiamo, Giovanni chi è? Giovanni? Ah, Giovanni sei Giovanni sei tu. Sono io, Roberto è mio marito e il pacemaker si chiama Luigi. Bellissimo. Avete un primo figlio, un altro già. Maschio peraltro. Avete un altro maschio. Abbiamo anche una femminuccia che è la mia cagnolina, che è Emily, per cui insomma cominciamo ad essere una famiglia consistente. Numerosa. Ma tu l'adotteresti un bambino? Sì, certo. Ma tu speri che in Italia si faccia presto anche questa cosa? È impossibile, non ci sarà, purtroppo, dico io, purtroppo. Io, dopo quello che mi è successo, ragazzi, all'Italia, non dico che la manderei proprio a fare in culo. No, ma dillo pure. Vado vicino. Cioè, la manderesti a fare in culo? Che la manderei un po' a fare in culo l'Italia, incluso tutto quello che ci sono. È che a me piace tantissimo. A me, io sono... un italiano e vorrei essere veramente un italiano fiero. Però per quello che ti è successo sarebbe da mandare a fanculo, dai. Anzi, mandiamolo a fanculo insieme. Mandiamo a fanculo l'Italia solo in questa trasmissione. Va. Allora, un attimo che c'è la borsa, poi torniamo con Scialpi che ci racconta quello che è successo in ospedale e ci racconta anche altre cose, cosa ne pensa di questa assurda pantomima che si fa in Italia quando basterebbe modificare un articolo della Costituzione, aggiungere una riga, il matrimonio, le stesse regole del matrimonio valgono anche per persone dello stesso sesso, invece da 27 anni si discute di cose inutili, a tra poco. Brucida. La Zanzara. Allora ragazzi, siamo in collegamento con Roma, David Parenzo naturalmente, casa di Scialpi, che non so dove sia, a Roma credo, no? Scialpi? Lo dobbiamo per forza dire dove sta Roma. No, vabbè, sta nella zona di Ponte Milvio. No, Roma dico, non mica voglio sapere la zona, per carità. Ecco, Ponte Milvio. No, allora, ti faccio sentire una cosa che è venuta fuori, parlando del tuo caso, di quello che è successo in ospedale, quando tu credo che hai rischiato di morire, no? O sbaglio? Mi permettete di fare solamente 2 osservazioni, perché dimmi. Mentre parlavate prima, io sull'Unione Civile ho un'osservazione e una provocazione dimmi. Da fare, poi magari entriamo specifico. Dimmi. L'osservazione è che mi sto scoprendo con un'Italia integralista, perché qui vedo che invece di essere tutti democratici e moderati ci sono gli integralisti cattolici che sono contro di me, gli integralisti di sinistra che sono contro di me nel senso del mio caso, quindi delle unioni civili, sì. E gli integralisti di destra. Proporrei veramente un atteggiamento un pochino più sedato, eventualmente gli do io qualche calmante per cercare di... A chi lo vorresti dare il calmante? Ma intanto lo darei ad Alfano, a Gasparri, a un sacco di persone. Giovanardi. Giovanardi tra l'altro delle parti mie, mi dispiace molto. Di Parma, perché, sì, è di Parma. Perché alle volte succedono che ci sono anche degli intoppi, non tutti i figli nascono nascono insomma bene. Non tutti i figli nascono bene, dici. Nascono un po' storti, diciamo. Nascono storti, e questa è la prima. La provocazione invece ti direi perché. Ma se tu avessi davanti Gasparri, cosa gli diresti? Sì. Gli direi perché lui. Ma gli stringeresti la mano? Sì, sì, ma io l'ho visto anche in un noto ristorante gay friend a Roma all'epoca, sì, si chiamava Il Corallo, c'era Il Corallo e c'era il fratello Giovanardi e Giovanardi. Penso, quindi alla fine cioè Gasparri frequentava un posti gay friendly. Giovanardi. Un ristorante che comunque era abbastanza si vede che c'era capitato per caso, non lo so. Magari si sarà sentito anche guardato un po' in un modo diverso, anche un po' male, però Senti, invece la provocazione qual era? No, la provocazione proprio mi riferisco a Giovanardi che parla sempre dell'utero in affitto che io farei una proposta per negare il matrimonio alle coppie etero che cercano l'utero in affitto, quindi evitiamo di parlare di matrimoni gay perché il matrimonio gay non ho capito perché vuoi evitare. Te lo spiego perché il 30% di coppie etero vanno, che non possono avere figli, vanno a cercare l'utero in affitto, però possono liberamente sposarsi e avere un figlio concepito con un utero in affitto. Noi invece stiamo facendo la questione che non possiamo sposarci perché noi andremmo, secondo loro, per forza a cercare, secondo Giovanardi, l'utero in affitto. Quindi la provocazione è che bypassiamo questa legge sul fatto dei matrimoni gay. In Italia i gay non si sposano più, però evitiamo di far sposare etero che cercano l'utero in affitto. Sì, lui è contrario anche al fatto che lui è contrario, o alcuni dell'NCD sono contrari anche al fatto che le coppie etero utilizzino l'utero in affitto. Però accade, questo accade però. Ma lui può essere contrario quello che vuole, però voglio dire, se siamo così attenti al fatto che noi non ci dobbiamo sposare, perché la conseguenza logica è che andiamo a cercare una donna e magari la paghiamo pure per avere un bimbo. Ma tu lo faresti? La stessa cosa che ha fatto Elton John, eccetera, eccetera, lo faresti o no? Intanto io non pagherei una donna perché sono contro la mercificazione No, ma indirettamente, Charles. Ma sai quante donne ho che vorrebbero fare un figlio con me? Sì, veramente? Te le racconto tutte, ma no, quello non è un problema. Ma lo faresti? Fare un figlio con una donna? Sì. Ho un'età avanzata per cui non me la sentirei. Beh, però mi hai detto che vorresti adottare. Sì, ma infatti intanto io e il mio compagno già aiutiamo una ex dipendente del mio compagno, tra l'altro del Marocco, che ha una bimba, per cui noi ce la siamo un pochino collassata. Sì, un'adozione. Prima era in Italia, poi adesso è andata in Francia. Ci aiutiamo l'adozione a distanza, però io non vedo perché si debbano mettere i paletti all'amore, cioè l'amore. Senti, ma tu hai mai incontrato preti che ci hanno provato con te, o preti gay, eccetera? Sì. Ho incontrato tanti preti gay, tra l'altro ricordatemi il nome di quella Aramsa, quella velina che poi travestito da Aramsa da prete, ma in realtà è una velina che io mi dissocio completamente dal suo stile, perché questo signore non ha fatto altro che prestare il fianco alla Chiesa per cioè una velina che... una velina l'hai chiamata? L'ho chiamata una velina, sì. Perché? Perché è esibizionismo. È un esibizionismo, sì. La velina non è un si esibisce giustamente per il ruolo che ha, non è che io contro. Secondo te ha fatto un danno alla causa omosessuale? Assolutamente sì, perché lui doveva dichiarare che era omosessuale e lasciare i fatti suoi al di fuori, invece era prestato il fianco alla Chiesa. Adesso noi non arriveremo mai alla fine di questo giallo, perché se lui avesse dichiarato che era solo omosessuale, vedevamo la mossa della Chiesa, che non poteva certo... Invece lui ha dichiarato di avere un compagno e tutto. Quindi per il voto di castità ovviamente è stato espulso. Invece lui doveva dire solamente che era omosessuale e vedevamo che cosa la Chiesa. E secondo te che cosa c'è dietro? C'è dietro l'interesse personale, ma avete capito il senso? Cioè, nel senso che forse mi spiego male io. No, ho capito benissimo. lui dicendo solo che era omosessuale avrebbe messo con le spalle il muro alla chiesa, perché la chiesa... Senti, ma io... No, ma ho capito che... benissimo. Io non ho capito una cosa, ma veramente la questione, tu hai detto all'inizio l'Italia mi fa schifo, vaffanculo l'Italia per quello che è successo in coso, no? In ospedale. Ma quello che è successo in ospedale è un fatto molto personale che io sto rendendo pubblico. In quel momento in cui io stavo tra la vita e la morte, non avevo vicino a me il mio compagno. Succede sempre. Nelle coppie, anche nel protocollo del pronto soccorso, sì. Però succede anche che un dottore, se c'è un parente in fuori, va fuori e dice: scusate, c'è un momento critico, come si chiama il prete per dare la benedizione, venga a vedere suo marito. E invece no, invece non c'è una legge che regolarizza questo. Oh, come lui è stato tenuto fuori? Non è che è stato tenuto fuori, lui non ha nessun diritto di chiedere come sto, il medico non ha nessun dovere di dire a Roberto, che per me è la persona più importante della mia vita in questo momento, come sto, se sto male, se sto morendo, se sto bene, se mi sono ripreso. Non ci sono queste piccole agevolazioni, sono ironico. No, ho capito. Questa è solo la mia testimonianza. Poi ci sono tantissime altre accezioni. Che ne so, gente che sta insieme da 20 anni, che poi muore. Senti, ma per chiudere ho un piccolo regalo per te. Abbiamo un collegamento con una persona speciale, perché tu hai mandato una lettera a una persona che è qui in collegamento con noi. Perché Barbara D'Urso, no? No, che Barbara D'Urso, un altro. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Pronto? Buonasera, sono Francesco. Giovanni, Santo Padre, sì. Santo Padre, che è successo? Grazie. Ho sentito della tua storia, ho letto la tua lettera che mi hai scritto ancora a luglio, ma non ero riuscito a rispondere, mi dispiace. Io ci sono rimasto un po' male. Ma adesso ci sentiamo, mi hai scritto che vuoi la mia benedizione, il mio abbraccio. Sì. Certo, perché io sono cristiano, per cui gradirei che lei, visto che si chiama come mio papà, vorrei veramente che, visto che mio papà non c'è più, mi desse questa benedizione cristiana e riuscissi, guarda, anche con la mia coscienza. Giovanni, te dico prima due cose. Uno che scrive e canta pregherei è già una garanzia. Certo. Ma ti stupirai se ti dico che mi piace il rock, e nell'83 a Buenos Aires cantavo una canzone che faceva così: rock and roll, per resistere, rock and roll. Ma Santo Padre, Santo Padre. Per difenderci, rock and roll, per non cedere mai. Ma dai. E adesso Giovanni ti abbraccio. Che il Signore ti benedica e la Madonna ti custodisca. Ciao. Arrivederci. Grazie. Ciao Scialpi, ciao, presto. Nicola, provincia di Pordenone, vai Nicola. Provincia di Pordenone, Sacile, specifichiamo. Sacile, Sacile. Tanto sei di casa, Sacile. Ma sta di casa, non esageriamo. Sono gonfiato le palle con la sera della sciarpetta, ormai sei di casa. Ma di casa, non esageriamo. Sacile, ancora un po' ti davano le chiavi della città. Ma che le chiavi della città? Ma che le chiavi? Sacile, importante, Sacile. La città è mia cara, sì. È la capitale dell'amore di Cruciani, Sacile. Sono la capitale dell'amore, Sacile. Di quell'altro lì, sì, no, che quale vedi? Città a me particolarmente cara, dai. Quando è che torni? Ma non lo so, adesso ragazzi, non è che quando torno a Sacile, non lo so. Giusto, quando torno a Sacile, è giusto che tu rispondi. Non lo so, ma torni in BlaBlaCar, così costa poco. Vieni, no, BlaBlaCar. Io al massimo faccio accompagnare l'autista, amico mio. BlaBlaCar, ma di che stiamo parlando? Chili Pozzi, anche tu lo vedi. Dai, vai, Nicola, che mi devi dire a parte Sacile, dai, no, niente di sta pazza animalista, un po' come tutte le animaliste che ho beccato su Facebook, un'amica di un'amica che ha fatto? Che si è impietosita davanti ai cornetti delle lumache in una bancarella e ha comprato 2 chili di lumache per poi liberarle nel bosco. Non ho capito. Ha liberato le lumache per poi liberarle. Ragazzi, siamo alla follia, dai. Ha comprato 2 chili di lumache, vantandosi di aver anche trattato sul prezzo per poi liberarle nel bosco. Va bene, Marco Catania, vai Marco. Marco. Allora, io vi chiamavo per questo, volevo esprimere la mia più profonda ammirazione e la mia stima a quel signore che si è difeso a casa sua nei confronti di due criminali. Sì. E lo dico purtroppo a mio malgrado, perché un mio zio ha avuto una bruttissima esperienza, perché durante una rapina da soggetti che poi si è scoperto essere dei mafiosi, gli hanno fatto sbrizzare il cervello sul petto. Sì, fondamentalmente. Ho capito. Quindi, magari se reagiva con una pistola gli avrebbero fatto saltare lo stesso cervello, eh? No, assolutamente, assolutamente, perché lui non voleva reagire, voleva soltanto prendere ciò che loro avevano chiesto. No, ho capito, se aveva una pistola in mano, magari quelli erano più bravi, gli avrebbero fatto saltare il cervello lo stesso. Detto questo, per me questo è un argomento che va assolutamente trattato e approfondito. Magari sarebbe più opportuno che chi avesse un'arma fosse addestrato prima di saperlo. Vabbè, quello sempre. Vabbè, Dario Vicenza, vabbè. Dario. Pronto? Dimmi. Ah, buonasera. No, io volevo intervenire in merito alla questione delle coppie di fatto, degli omosessuali. Volevo esprimere tutta la mia contrarietà, veramente sono davvero disgustato. Disgustato dalle coppie di fatto. A te ti stanno sul cazzo i froci, questa è la realtà. No, io rispetto... Sì, ti stanno sulle palle i froci, questo è... Come individuo, io penso che un uomo abbia il diritto di fare ciò che crede nella sua vita. E allora? Ma parlare di matrimoni e di adozioni, ma veramente... Ma vogliamo stravolgere le leggi naturali. Ma quali leggi naturali? Ma non diciamo cazzate, che le persone si inchiappettavano sin dai tempi dell'antichità. Dai, su sin dall'antichità. La procreazione. La procreazione naturale si può fare solamente tra uomo e donna, è vero, sì. È così. E allora, ecco, qual è il punto? Allora, gli interessi egoistici di persone che vogliono dare un'apparenza di normalità a ciò che normale non è. Ah, per te non è normale. Per te non è normale. Il diritto di un bambino ad avere una famiglia normale, ad avere un padre ed una madre, perché questo l'ha stabilito la natura. Okay, per te non è normale. Per te non è normale. Assolutamente. Cioè, l'omosessualità è anormale. È una malattia. Beh, certo, non è normale. Certo. Non è normale. Non è normale. No, diciamolo pure, non è una malattia. Normale. È una malattia. Se certo, dice, vabbè. Certo. Anche in fisica i poli positivo e positivo non si attraggono, i poli opposti. Ma invece c'è un sacco di gente che è attratta, c'è un sacco di uomini che sono attratti dagli uomini, un sacco di donne che sono attratte da donne. Cioè, amico mio, sei circondato, per ritornare a un mio vecchio cavallo di battaglia, sei circondato anche tu da froci. Sei circondato anche tu da froci, te ne devi fare una ragione. Il mondo è popolato di omosessuali e di froci, certo, non sono tanti, non è che aumentano, sono sempre gli stessi e resteranno sempre gli stessi. Non è che ci sarà l'invasione dei froci. Domani, ciao. Siete criminali. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.